Salva Danaio con Simone Spezia. Le 12 e 10 minuti, buona giornata gentili ascoltatori, da Simone Spezia, voce inconsueta qua per questa trasmissione a quest'ora, ma non vi preoccupate, Deborah Rosciani tornerà naturalmente lunedì. Di cosa parleremo oggi? Parleremo della regolarizzazione dei lavoratori stranieri. È fissata il 15 ottobre la scadenza entro la quale questa sarà possibile. Ci sono naturalmente ancora molti dubbi per chi ancora non l'avesse fatto, insomma siamo quasi a ridosso della scadenza finale, molti nodi da chiarire. C'è da ragionare anche sui costi e su se sta funzionando oppure no questa regolarizzazione. Lo faremo come sempre con degli ospiti, nella fattispecie Rossella Cadeo del Sole 24 Ore, che è già in studio con noi. Buongiorno Rossella. Buongiorno. E Alessandro Rota Porta, consulente del lavoro, che tra l'altro scrive di queste cose per il Sole 24 Ore. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E invece naturalmente al telefono. Prima di tutto, come sempre però, un punto sull'andamento dei mercati, mercati che erano partiti abbastanza bene nell'arco della mattinata. Erano circolate voci secondo le quali i termini di Basilea 3, l'accordo che riguarda il capitale delle banche, insomma, che avrebbe reso più stringenti i criteri di capitale ai quali le banche si devono attenere, sarebbe stato rinviato dal 1 gennaio di 2013 di 6 mesi, un anno. Quindi le borse sono andate bene, le banche erano in grandissimo spolvero, poi è arrivata la smentita, FTSE MIB meno 0,35%, FTSE OCER meno 0,33%, giù anche le altre piazze finanziarie europee, Parigi meno 0,4%, Francoforte altrettanto. A pesare su tutto questo anche il fatto che ieri in realtà la giornata è stata brillantissima, un guadagno dell'1,20% per Piazza Affari. Diamo un'occhiata rapida ai singoli titoli. Saipem cede il 4%, questo è dovuto anche a un downgrade, ossia un abbassamento del giudizio da parte di Nomura della banca d'affari, giù in pregilo del 2,4%. ST Microelectronics cede del 2, e qua risente del fatto che AMD, l'americana AMD, che fa appunto microprocessori, abbia lanciato un cosiddetto profit warning, ossia un allarme sui profitti. Bene invece Mediaset, che guadagna il 3,25%, Finmeccanica il 2,15%, a quanto pare dalle parti del Ministero della Difesa si sta cercando di trovare qualche strategia per le alleanze. Bene Azimut più 0,96%, Intesa San Paolo più 0,86%, UbiBanca più 0,85%, Euro che quota 1,2975 contro dollaro, e spread intorno ai 350 punti, comunque in calo. Da quel lato le cose vanno abbastanza bene. Dunque, parliamo di regolarizzazione dei lavoratori stranieri, ma prima consentiteci di fare un punto. Oltre a segnalarvi tutti i contatti, l'800240024 per intervenire in diretta e per fare le vostre domande, più che per intervenire in diretta, il 349-238-6666 è il numero di SMS. Se preferite usare Twitter è salvadanaio24 l'account, e c'è anche la pagina Facebook, ce l'ho qua sotto, quindi se volete scriverci e farci domande anche là con tutti questi molteplici mezzi potete naturalmente farlo. Prima di parlare di regolarizzazione dei lavoratori stranieri, dato che questa trasmissione si occupa spesso di soldi e anche di scadenze fiscali, lasciateci fare un punto su quella che è l'apertura del Sole 24 Ore di oggi, che parla di questa retroattività inserita nella legge di stabilità di tagli agli sconti fiscali. Che cosa succede? Che la franchigia di 250 euro prevista per deduzioni e detrazioni sui redditi oltre i 15.000 euro avrà efficacia retroattiva, scatterà dalle prossime dichiarazioni dei redditi e quindi riguarda anche i redditi che avete percepito quest'anno. Scrive Salvatore Padula oggi sul Sole 24 Ore in un commento: sarebbe un ennesimo spiacevole caso di arroganza fiscale. Una cosa che naturalmente ci sentiamo di condividere e speriamo che nel percorso parlamentare della legge di stabilità tutto questo si risolva. Facciamo il punto però sul tema di giornata, lo ricordiamo ancora una volta, la regolarizzazione di lavoratori stranieri con la scheda. Il governo ne aspettava tra 100 e 130.000, ma a ridosso della scadenza non sono neanche la metà le istanze presentate dai datori di lavoro per regolarizzare la posizione degli stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno. Eppure si tratta di una possibilità che interessa centinaia di migliaia di lavoratori attivi sul territorio nazionale. La platea potenziale è stimata intorno ai 380.000 extracomunitari che portano un contributo importantissimo al tessuto produttivo e alla quotidianità di tante famiglie italiane. In passato, con i click day previsti dal decreto flussi, la procedura di regolarizzazione veniva completata online dai richiedenti più veloci. Il nuovo percorso, previsto da un decreto del governo Monti, ha previsto invece una finestra tra il 15 settembre e il 15 ottobre. Mancano quindi pochi giorni, all'interno della quale è possibile inoltrare le domande. Le istanze si inoltrano telematicamente attraverso il sito del Ministero dell'Interno, ma non c'è un numero massimo né una graduatoria. I datori avevano quindi un mese effettivo di tempo per provvedere. Si possono trovare diverse spiegazioni per la scarsa adesione registrata finora. C'è la crisi del mercato del lavoro e ci sono i costi della procedura. 1.000 euro forfettari una tantum più oneri retributivi, contributivi e fiscali da versare per almeno 6 mesi. Inoltre, solo a sanatoria già avviata, l'Avvocatura di Stato ha chiarito quali sono i documenti validi a certificare la presenza ininterrotta in Italia dal 31 dicembre 2011, che è solo uno dei requisiti da rispettare. Il datore di lavoro dovrà anche attestare una soglia reddituale minima, che ad esempio nel caso di un nucleo monoreddito che assume una badante è di 20.000 euro. Sono convinto che i datori di lavoro che intendono regolarizzare i lavoratori in nero debbano affrettarsi, ha detto il ministro Andrea Riccardi, sottolineando che, superata la scadenza del 15 ottobre, le autorità saranno molto severe rispetto allo sfruttamento degli irregolari. Iniziamo da qua, Rossella Cadeo del Sole 24 Ore. Vi ricordo che tra l'altro sul sito del Sole 24 Ore c'è uno speciale, ampio spazio dedicato a questo. Rossella, iniziamo da un aggiornamento sui numeri di questa sanatoria, di questa regolarizzazione. Sì, in effetti i numeri ci parlano di un'accelerazione in questa fase finale delle domande di regolarizzazione. Sul sito del Ministero dell'Interno si trovano i dati aggiornati giorno per giorno e a ieri eravamo arrivati a quota 93.000, quindi l'ultima settimana ha visto una crescita abbastanza decisa di questa dichiarazione di emersione. Questo soprattutto perché proprio la settimana scorsa, giovedì scorso, l'Avvocatura di Stato ha chiarito un punto importante, cioè quali sono i documenti e gli organismi pubblici che sono autorizzati a certificare la presenza dello straniero in Italia dalla fine dell'anno scorso. Certo, Rossella, possiamo dire che anche che l'Avvocatura di Stato si poteva sbrigare un po' di più, insomma, perché a 10 giorni dalla scadenza, francamente. A 10 giorni dalla scadenza, a sanatoria già avviata, molti si chiedevano quali fossero questi documenti che potevano accertare la presenza in Italia dello straniero prima di avviarsi a fare una domanda, ad aprire una procedura che poteva rivelarsi complessa e anche costosa, come sottolineato all'inizio. Parliamo anche di 10.000 euro per la regolarizzazione di uno straniero non regolare. E tra i documenti che sono validi possiamo ricordare appunto la scheda SIM dei cellulari. Questo era uno delle domande che si facevano gli interessati appunto a questa sanatoria. Anche una sanzione presa su mezzo pubblico, una sanzione stradale, quindi magari si pentirà chi è sfuggito al controllore a bordo di un autobus. Perché la testimonianza che sei in Italia, anche quello, che sei in Italia, fatta da un servizio pubblico, un servizio destinato a ad agire da parte dello Stato, del pubblico, insomma. Chiarissimo, Rossella. Vi ricordo ancora una volta i numeri per intervenire: il 349-238-6666 per gli sms, l'800-24-0024 per telefonare, intervenire in diretta se avete domande naturalmente, e con Alessandro Rotaporta, che lo ripeto ancora una volta, è consulente del lavoro, vorrei fare il punto su chi sono, ancora una volta, su chi sono i soggetti interessati, cioè chi la può fare questa regolarizzazione. I soggetti interessati, diciamo che la platea è molto ampia, perché riguarda datori di lavoro sia nell'ambito del lavoro domestico e quindi dei servizi familiari, quindi intendiamo le classiche colf e le badanti, ma anche datori di lavoro appartenenti ad altri settori, quindi è una sanatoria dal punto di vista dei destinatari a maglie molto larghe. Tra l'altro nel rapporto di lavoro domestico è consentita anche l'instaurazione di rapporti di lavoro con contratto part time, purché non sia inferiore a 20 ore e nel rispetto della retribuzione mensile non inferiore all'assegno sociale, che ricordiamo per l'anno 2012 è pari a 429 euro. Mentre per gli altri datori di lavoro il rapporto deve essere inquadrato con contratto a tempo pieno, però è anche possibile l'assunzione con la formula del contratto a termine, quindi vediamo che c'è molto spazio per i datori di lavoro che vogliono regolarizzare queste, che vogliono sanare queste posizioni. Detto ciò, le chiedo di aiutarci a capire, il costo è pazzesco, c'è una tabella pubblicata dal Sole 24 Ore nei giorni scorsi per esempio una colf livello A, si può arrivare a pagare 1700 euro, si superano i 2000, per una persona che lavora in una pizzeria si sfiorano i 6000 euro, ma come si arriva ad una struttura di costi di questo genere e francamente come può funzionare una sanatoria con questi prezzi? I costi. Il capitolo dei costi è decisamente spinoso, la tabella tra l'altro l'ho elaborata io, e premetterei ancora una cosa: le stesse difficoltà. E ho messo dalla tabella che lei ha elaborato, ho messo muratore secondo livello, artigiano edile fino ad 8600 euro. Sì, perché appunto, intanto volevo premettere una cosa: come si è detto nel discorso dell'Avvocatura di Stato che è intervenuta in corsa a dare chiarimenti, anche qui le difficoltà, oltre al capitolo proprio delle spese che dovranno sostenere i datori di lavoro, anche dal punto di vista procedurale abbiamo avuto un intervento dell'INPS al 28 settembre con la circolare 118, un intervento dell'INAIL il 2 ottobre con la circolare 48, quindi anche qui vengono forniti dei chiarimenti in corsa che poi magari spiegheremo, obbligheranno chi ha già presentato l'istanza a fare delle ulteriori comunicazioni. Comunque, a parte questo aspetto tecnico che comunque complicherà anche questo la vita dei datori di lavoro, perché al di là delle spese ci sono delle procedure da adottare che non sono tutt'altro che semplici, ma entrando proprio nel vivo delle spese che dovrà sostenere il datore di lavoro, perché si arriva a queste cifre? Perché oltre al requisito della presenza in Italia del lavoratore al 31/12/2011, oltre al requisito dell'instaurazione del rapporto di lavoro irregolare almeno alla data del 9 maggio 2012, la norma che regola la sanatoria ha proprio introdotto l'obbligo del versamento degli oneri, dei trattamenti retributivi, contributivi e fiscali almeno riferiti a 6 mesi di rapporto irregolare. Quindi, perché si originano questi costi? Perché il lavoratore, chiamiamolo sanato, deve essere trattato al pari di un lavoratore che fosse stato inquadrato in maniera regolare, quindi il datore di lavoro, quando si presenterà allo sportello unico per la firma del contratto di soggiorno, dovrà attestare di aver corrisposto almeno questi 6 mesi di retribuzione in una data non successiva al 9 maggio 2012, ma di aver anche continuato rispetto alla convocazione allo sportello unico ad erogare quindi la retribuzione secondo le paghe contrattuali dei contratti nazionali di riferimento, versato la contribuzione attraverso le diverse formule, a seconda che sia un datore di lavoro domestico o un'azienda, e anche versate le ritenute fiscali, perché rispetto ad altri provvedimenti di sanatoria del passato, lo sportello unico andrà, quindi oltre ad acquisire la documentazione che deve produrre il datore di lavoro, anche a richiedere un DURC, chiamiamolo un DURC emersione, qui che è una dichiarazione di regolarità contributiva che gli enti dovranno emettere a conferma che il datore di lavoro ha operato in modo regolare. Ha tutto l'aria molto faticosa, ma del resto è il paese che è fatto così e quindi poco ci possiamo fare. Abbiamo una prima telefonata, Gianni, che ci chiama da Roma. Buongiorno. Ah, buongiorno, mi sente? Sì, perfettamente. Senta, mi scusi, ho sentito al telefono che voi dicevate che tra i tanti elementi identificativi ce n'erano due molto interessanti, che era la scheda SIM e eventuali multe, non so, tram, mancanza di biglietto, ma si vede che chi dice queste cose non è stato mai in Italia, per il semplice motivo che la scheda SIM, essendo un clandestino, la fa prendere a quegli altri che hanno il permesso di soggiorno e quindi non è mai identificabile. Due, se uno prende una multa, non è che la polizia gli chiede il documento, è quello lì che dichiara come ti chiami, mi chiamo Tizio Gaio Sempronio e finisce lì senza fissa dimora. L'unico documento certo, sembra una contraddizione in termini, è il documento di espulsione, che è la polizia che identifica il soggetto a non stare sul territorio. Il resto sono tutti elementi virtuali fatti da chi non capisce niente. La ringrazio per la valutazione, Gianni, perché poi questo ci consente anche di agganciarci ad un altro elemento, e giro la domanda a Rossella Cadeo. Questa struttura di costi che abbiamo detto è impressionante, abbiamo parlato di furbetti da una parte, parliamo dei furbetti dall'altra, ossia i datori di lavoro che si potrebbero far pagare per sanare i lavoratori. Sì, in effetti questo è uno dei rischi, è un rischio che si corre con questa sanatoria, che si è sempre presentato anche nelle precedenti, e se gli oneri di questa sanatoria non vengono addossati al lavoratore, è possibile anche che ci sia una suddivisione del costo. Tra l'altro, a concorrere a questa cifra ci sono anche, ricordiamo, questi 1000 euro di contributo iniziale, un una tantum, che non è né deducibile né non si può portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi, e non è rimborsabile neppure qualora la procedura non andasse a buon fine. Quindi sono 1000 euro a fondo perduto. Persi sostanzialmente. Sono persi se non si dovesse concludere positivamente. Quanto ai certificati e alla documentazione che rende possibile certificare la propria presenza in Italia, sì, concordo con l'ascoltatore. Questo è un elenco fornito dall'Avvocatura di Stato. Ovviamente è un elenco sul quale si faranno anche dei controlli, non potrà essere presentata una multa senza documentazione, senza documenti di identità che provino la presenza, la corrispondenza tra la sanzione e il soggetto sanzionato. Ci sono poi altri documenti molto più accettabili, credo, ma anche quelli immagino poco facili da ottenere per l'immigrato che si fosse trovato in una situazione di clandestinità in Italia, per esempio il certificato medico. Molti immigrati non in condizione regolare preferivano non presentarsi in un ospedale, in una struttura pubblica, anche per timore di essere poi segnalati come clandestini. Un altro certificato utile è quello dell'iscrizione dei figli a scuola, sempre che la famiglia abbia fatto venire anche i figli in Italia, quindi forse anche questa non è una condizione così frequente. Oppure il visto di una rappresentanza consolare in Italia, e questo forse è quello a cui si farà più ricorso, quello che sarà più accettato. Non valgono, ricordiamo, i timbri di ingresso nell'area Schengen, quindi se uno straniero è entrato in Spagna o in Francia e poi da lì è venuto in Italia senza un timbro di ingresso alla frontiera, ecco, il timbro spagnolo o francese non sarà ritenuto valido. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666. Al numero di SMS iniziano ad arrivarci dei messaggi. Vi prego francamente di smettere su questa storia, insomma, l'occasione buona per rimandarli a casa loro, vanno espulsi, eccetera eccetera. Allora, innanzitutto non stiamo parlando di questo, non ne stiamo facendo una questione politica, ma stiamo trattando semplicemente la questione di una regolarizzazione in atto e stiamo affrontando gli aspetti tecnici. In secondo luogo, ricordate sempre che se si tratta di una sanatoria c'è il clandestino, ma c'è anche la controparte che l'ha tenuto al lavoro nero e da clandestino per mesi e mesi, e quindi occhio a come si prendono le cose. Naturalmente torno a coinvolgere Alessandro Rotaporta, consulente del lavoro. Vi ricordo anche gli altri contatti, è la pagina Facebook di Salvadanaio e anche l'account Twitter Salvadanaio24. Torno a coinvolgere Alessandro Rotaporta, consulente del lavoro, con una domanda che ci arriva da un ascoltatore via SMS. Ci chiede qual è il reddito minimo per una persona invalida al 60% che assume una badante, se i redditi dei parenti sono sommabili anche se non conviventi, perché c'è lo snodo del reddito di chi regolarizza il lavoratore straniero, no? Sì, c'è il requisito reddituale, ma nel caso sottoposto dall'ascoltatore il reddito non è necessaria l'indicazione del reddito, poiché i rapporti di lavoro domestico con badanti, con personale adibito a funzione di badante, è escluso dal vincolo reddituale, quindi sarà sufficiente alla presentazione delle parti allo sportello unico dimostrare l'invalidità della persona assistita con certificato medico rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale. Quindi, guardi, intanto la fermo, poi andiamo sugli altri criteri, perché questo che ci ha detto è interessante, e a ruota arriva un'altra domanda, sempre via SMS, di un altro ascoltatore che ci dice: io ho inviato la domanda telematica, ma per errore non ho indicato la disabilità del datore di lavoro, che appunto rende irrilevante il reddito, come lei ci ha spiegato. Chiede se e come eventualmente può rettificarla. Sul tema il Ministero dell'Interno è intervenuto con alcune FAQ, non in modo specifico rispetto a questo quesito che è stato sottoposto dall'ascoltatore, però diciamo che per analogia si può ritenere che presentando una comunicazione allo sportello unico integrativa rispetto all'istanza potrebbe essere una situazione che è possibile sanare, quindi andare a correggere l'eventuale errore in sede di presentazione dell'istanza. Il restante quadro per quanto riguarda i requisiti reddituali, Rotaporta? Sì, il restante quadro, allora, per quanto riguarda le imprese, quindi le aziende, devono poter dimostrare un reddito o un fatturato di 30.000 euro, quindi il requisito reddituale in quel caso lì deve essere del valore che ho appena elencato. Per quanto riguarda invece il rapporto di lavoro domestico, come dicevo, nel caso del personale badante non è necessario l'indicazione del reddito, mentre invece per quanto riguarda le altre tipologie lavoro domestico, il requisito reddituale non deve essere inferiore a 27.000 euro, e può essere anche, possono partecipare a diciamo a sostenere questo requisito anche gli eventuali parenti fino al secondo grado di parentela, sì. Anche se non sono conviventi, quindi si può includere anche diciamo, i parenti possono sostenere il chiarissimo reddituale. Chiarissimo. Abbiamo alcune telefonate, iniziamo perché è in attesa da un po' con Oscar che ci chiama da Milano. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'opportunità. Prego. Avrei due domande. La prima, io ho fatto domanda di immersione telematicamente il 15 di settembre. Successivamente, in realtà a partire dal 1 di ottobre, la persona con il badante di mio padre ha cambiato indirizzo. Questo comporta qualche problema oppure no? Cioè il lavoratore ha cambiato indirizzo o suo padre? No, no, no, il suo padre ha cambiato residenza. Ha cambiato, cioè, ha cambiato casa in buona sostanza. Quindi l'indirizzo che è stato indicato sulla domanda telematica di residenza del collaboratore è cambiato nel frattempo. Questo è un problema oppure no? Questa è la prima domanda. E la seconda è, nel conteggio dei vari oneri che ci sono, sono compresi il conteggio per gli oneri fiscali, vale a dire le tasse sulla retribuzione che costui ha preso, ma il conteggio come viene fatto? In base a che cosa? Cioè, come si fa a fare il conteggio della quota fiscale? Perché l'INPS provvede da solo a mandare il MAV di competenza. La retribuzione viene certificata con la retribuzione che è stata data, ma la quota fiscale come viene calcolata? Come si fa a fare il conto? Grazie Oscar per le sue domande. Adesso poi andremo anche ad altri ascoltatori. Intanto le giro a ruota porta. Sulla domanda telematica mi sembra che in parte abbia già risposto prima, anche se la questione era diversa, no? Sull'errore o sul cambiamento, diciamo, di alcune cose all'interno della domanda telematica. Sì, intanto mi allaccio solo un secondo alla domanda precedente per completare e volevo solo ancora precisare che se il datore di lavoro domestico è un quindi il nucleo familiare è composto da un solo percettore di reddito, il requisito non è 27.000 ma è 20.000, quindi più basso. Mi faceva piacere precisare questo aspetto. Nel caso invece dei quesiti posti dall'ascoltatore, la residenza può essere, la variazione di residenza può essere comunicata appunto comunicando la variazione allo sportello unico, perché questo è importante, perché tra l'altro gli atti relativi all'iter della sanatoria vengono notificati contestualmente sia al datore di lavoro che al lavoratore, quindi è importante che in questo caso venga comunicata la variazione della residenza del lavoratore. Per quanto riguarda invece gli aspetti fiscali, nel caso del rapporto di lavoro domestico non c'è nessun obbligo di versamento di ritenute fiscali, poiché è una tipologia che non, in cui il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, quindi non c'è nessuna ritenuta fiscale da andare a conteggiare, mentre questo è invece obbligatorio nel caso dei datori di lavoro non domestici, per cui il domestico non ha obblighi in merito alle ritenute fiscali, dovrà invece poi andare a dichiarare di aver corrisposto la retribuzione secondo quanto previsto dal contratto nazionale. Invece in merito alla contribuzione è l'INPS che, acquisendo i dati direttamente dal corpo dell'istanza, invierà direttamente al datore di lavoro i bollettini MAV già precompilati, e con questi il datore di lavoro può effettuare i versamenti e poi presentare le attestazioni quando verrà convocato presso lo sportello. Nicola ci chiama da Bari, buongiorno Nicola. Buongiorno, senta, volevo porre alcuni quesiti al dottor Rotaporta. Allora, una volta fatta la procedura telematica, ecco, vorrei sapere quali sono gli altri adempimenti in ordine, diciamo, di tempo. Cioè, non so, bisogna andare all'INPS, il contratto, dove si deve fare, deve venire insieme la badante. Se esiste poi, una volta fatto il contratto, il periodo di prova. Ok. Diciamo queste più o meno le domande. Perfetto, perfetto. Chiarissimo Nicola, io raccoglierei anche qualche altra domanda, per esempio quella di Simone che ci chiama da Macerata. Buongiorno Simone. Sì, buongiorno. Volevo fare una domanda alla vostra ospite. Quando parlava dei documenti che attestavano di un clandestino che era presente in Italia prima dell'anno. Anche il fatto che questi ragazzi dicono i figli, fanno arrivare i figli qua, ma un clandestino senza un contratto di lavoro non può fare il ricongiungimento familiare. Quindi tutta quella serie di documenti che vengono elencati tra molte cose, cioè sono tutte cose che non esistono. Guarda, io le parlo in prima persona, mia moglie è cinese. Esatto, è quello che volevo sentire, insomma, quindi c'è un caso specifico che guarda, c'è. No, mia moglie è cinese regolarmente qui, ha la carta di soggiorno, però io conosco tantissime persone che stanno cercando questi documenti, ma un clandestino che non ha documenti non ha niente sulle mani, non avrà molto e non avrà niente di niente. Tutte queste ipotesi che vengono fatte, che vengono elencate, non esistono, perché un clandestino non può far arrivare figli, un clandestino non prende multe e non ha schede SIM, a meno che non sono di altre persone, eccetera, eccetera. Mi sembra un tema che in parte abbiamo già affrontato prima. Comunque la ringraziamo per la domanda, Simone. Tra l'altro ce n'è un'altra proprio sui documenti che ci è arrivata via SMS. Prendiamo anche un'altra domanda, un'altra telefonata e poi facciamo quello che possiamo considerare il giro conclusivo o quasi. Ezio che ci chiama da Como, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno, il caso è questo. Una ragazza coreana è venuta qui nel 2008, ha studiato per 2 anni a sue spese, con permesso di soggiorno per studio, poi ha fatto uno stage di 7-8 mesi, poi finalmente è stata assunta per un quadriennio da una ditta presso cui aveva fatto lo stage. Però il passaggio da permesso di soggiorno per studio a quello per lavoro pare sia difficile. Un commissariato di Milano, siamo andati la settimana scorsa, gli ha dato l'ordine di allontanarsi dall'Italia. Volevo sapere, deve fare la domanda di quella che c'è in corso adesso oppure c'è altri sistemi per fare questo cambio di permesso di soggiorno? Grazie, grazie anche ad Ezio. Allora, io inizierei il giro partendo da tutta la questione dei documenti, sulla quale tornerei però con Rossella Cadeo. Ci diceva Simone da Macerata, se è un clandestino, quei certi documenti non li può avere. Nel frattempo ci scrive Lilia via SMS al 349-238-6666, chiede se è valido il certificato medico del pronto soccorso. Allora, vediamo di rispondere a Simone e a Lilia. Sì, il certificato medico del pronto soccorso possiamo dire è valido, basta appunto che sia stato rilasciato prima del 31 dicembre 2011. Quanto agli altri certificati, sì, sono dei paletti molto rigidi quelli imposti da questo decreto legislativo. Ricordiamo comunque che potremmo parlare non tanto di clandestini quanto di lavoratori di presenze irregolari in Italia, perché lo straniero, l'extracomunitario, è ritenuto irregolare quando non ha un lavoro in Italia. Quindi può anche essere che sia entrato regolarmente, come appunto il caso della studentessa coreana che è arrivata in Italia per un permesso di studio e per la quale adesso ci si chiede se può aspirare, sì, a restare a prolungare il suo soggiorno in Italia passando ad avere un permesso di lavoro. Ecco, in questo caso la studentessa dovrebbe avere un lavoro e avere la prova di un contratto di lavoro instaurato almeno dal 9 maggio scorso. Quindi adesso lascerò la parola a Rotaporta, sì, vediamo se concorda, sì, con questa mia risposta. Sì. Rotaporta, allora che dice su questa ragazza coreana? Ci sente? Pronto? Alessandro Rotaporta? È caduto. Allora facciamo una cosa, prima di andare a rispondere anche a Nicola che da Bari ci chiedeva quali adempimenti dopo quello telematico, se c'è il periodo di prova oppure no, abbiamo Dittuni che ci chiama da Verona. Buongiorno. Buongiorno Simone, tu ospite. Io ho una domanda riguardo il lavoratore stagionale che dal 2009 entrano in Italia regolarmente e tornano al suo paese originale rispettando il contratto di lavoro. E l'ultima volta che sono entrati qua è giugno 2012. I lavoratori hanno il diritto di presentare questa domanda o no? Benissimo, adesso questa è... Però Dittuni, ancora in linea? Sì, sono ancora lì. Sì, quindi l'obiettivo, voglio dire, in ballo c'è un contratto regolare fisso, non stagionale, immagino, a questo punto, oppure no? Bravo, quello che vogliono sapere se i ragazzi qua che non sanno se vanno a presentare questa domanda spendendo questa 1.000 euro. Ma quella la deve presentare il datore di lavoro, quella. Lui è disponibile. Il datore di lavoro non è sicuro se viene accettata questa richiesta quando lo fanno, perché sono in fase a giugno 2012. Direi di Rossella, no, perché proprio il requisito è questa presenza ininterrotta dal 31 dicembre del 2011, quindi in questo caso io sconsiglierei il versamento dei 1.000 euro e l'apertura della pratica. Si rischia di perdere i soldi. Io volevo però sottolineare una cosa anche per tutte le telefonate che arrivano di critica a questa sanatoria. In realtà non è una sanatoria, è un periodo transitorio previsto da un decreto legislativo che recepisce una direttiva comunitaria e che vuole arginare il fenomeno del lavoro nero. Quindi i datori hanno questo mese di tempo per mettersi al riparo dalle sanzioni. Chiarissimo. Rotaporta, l'avevamo convocata su due cose, non so se l'ha sentito, il caso della ragazza coreana che il passaggio da studente, da permesso come studente a permesso come lavoratrice, se può usufruire di questa sanatoria, e poi Nicola che ci chiedeva quali adempimenti bisogna fare dopo la procedura telematica e se esiste un periodo di prova. La prego di essere brevissimo perché ci è rimasto un minuto e mezzo. Allora, nel caso di Nicola, ovviamente essendo un rapporto di lavoro che si è costituito in modo irregolare, il periodo di prova non esiste, quindi tra l'altro il rapporto di lavoro, come dicevamo, deve essere iniziato almeno il 9 maggio 2012, essere ancora sussistente alla data dell'istanza, per cui il periodo di prova non è assolutamente previsto. In merito agli adempimenti, come dicevo, per i datori di lavoro domestici, nel momento in cui è stata presentata l'istanza, non devono fare nulla se non attendere il recapito da parte dell'INPS dei bollettini per il pagamento dei contributi, quindi non devono attivare ulteriori adempimenti in attesa della convocazione presso lo sportello unico, dove produrranno tutta la documentazione che abbiamo elencato nel corso della trasmissione. La domanda dell'ascoltatore della ragazza coreana purtroppo è caduta lì, non sono riuscito ad ascoltarla, però mi sembra di aver capito che la persona che si vuole regolarizzare aveva un titolo che non consentiva l'attività di lavoro subordinato. Bene, questa procedura di regolarizzazione consente anche di andare a sanare le situazioni in cui il lavoratore è stato impiegato con un titolo che non consentiva il lavoro subordinato. Chiarissimo, però all'ascoltatore diciamo si sbrighi perché ha tempo solamente fino a lunedì. Grazie Alessandro Rotaporta, consulente del lavoro, Rossella Cadeo del Sole 24 Ore, Fabio Cantadori in regia, Marco Lombardo preziosissimo in assistenza. Una buona giornata da Simone Spezia.